Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata. Da qualche giorno c'è una novità molto interessante. Dal 1 aprile, non è stato neanche uno scherzo, è scattato un nuovo obbligo che però cela anche un'interessante opportunità, quella di far nascere un'impresa in pochi giorni, anzi in un click, con pochi colpi di mouse. L'obbligo è l'utilizzo di un nuovo canale telematico, si chiama Comunica, è la sintesi di comunicazione unica e permette di assolvere per chi ha intenzione di far nascere una piccola impresa individuale contemporaneamente tutti gli adempimenti fiscali, assistenziali, previdenziali e gli adempimenti che riguardano il registro delle imprese. L'utilizzo del nuovo canale telematico per l'avvio di una nuova impresa è il risultato di un percorso di legge che è stato piuttosto lungo, tortuoso e articolato, che venne avviato con una normativa nel 2007 che ha subito poi nel tempo diverse modifiche. Negli ultimi due anni sono stati aperti molti canali dedicati alla sperimentazione dell'operatività di queste nuove procedure. Allora noi stamattina facciamo un po' il punto della situazione. Intanto, cosa succede esattamente dal 1 aprile, come sono andati questi mesi di sperimentazione, in sostanza come funziona la nuova procedura, è davvero così semplice far partire una piccola nuova impresa e cosa succede per esempio se si vogliono assumere dei dipendenti? Allora stamattina, ad aiutarci a fare chiarezza su queste novità, sono arrivati intanto il collega del Sole 24 Ore Marco Bellinazzi. Marco, Buongiorno. Ciao. Allora, tra l'altro Marco autore di una serie di articoli su questo argomento, l'ultimo dei quali è apparso su Norme e Tributi di venerdì scorso 2 aprile. Il giorno dopo esattamente l'avvio di questo obbligo, ovviamente eravamo in piena pausa pasquale, quindi c'è stato un avvio soft nella comunicazione unica, come intitola il pezzo, e poi cercheremo di capire anche insomma su quali città si è indagato e cosa è successo e quanti si sono alzati quella mattina con l'intenzione di avviare una piccola impresa, che naturalmente è un procedimento che non si esaudisce esattamente tutto in un giorno, ma di sicuro il percorso di semplificazione è stato molto molto accelerato e accentuato. E poi ci aiuta anche, come dire, un vero e proprio addetto ai lavori, Maurizio Pirazzini, vice segretario generale della Camera di Commercio di Ferrara, anche conservatore ufficio del registro delle imprese. Pirazzini, buongiorno, ho detto tutto correttamente, visto che ieri non abbiamo fatto altro che sbagliarci sul suo nome e sulle sue cariche? Perfetto Deborah, grazie, buongiorno a Deborah, buongiorno anche a Marco Bellinazzi e tutti i radioascoltatori. Ascoltatori che possono intervenire all'800240024 chiamandoci, raccontateci se siete fra gli sperimentatori della comunicazione unica o se state guardando a queste nuove procedure magari con l'intenzione di avviare un'attività ma avete ancora qualche resistenza, perché poi bisogna ovviamente presentarsi davanti al computer con un po' di lavoro già fatto, e quindi stamattina vi chiariremo le idee anche su questo. 349-238-6666 invece il numero per i vostri messaggi. La borsa stamattina è leggermente negativa dopo i rialzi di ieri, particolarmente negativa per Piazza Affari che perde lo 0,4%, sta praticamente cancellando quanto guadagnato ieri, ma le rinnovate tensioni sul fronte greco in realtà ancora una volta sembrano essere piuttosto trascurate dal mercato azionario. Un po' più di preoccupazione su quello valutario, perché l'euro è sceso di nuovo sul dollaro a 1,33 e 84. In Grecia è cominciata la missione del Fondo Monetario Internazionale, durerà un paio di mesi e vedremo che cosa succederà in questi due mesi. Milano oggi premia Prysmian, che è stata in realtà oggetto di un giudizio positivo di una società appunto di analisi. Prysmian guadagna il 2%, segue Pirelli più 1,68, Campari più 1,16, Italcementi più 0,97 con Autogrill, che ha avuto il rinnovo di una serie di commesse importanti in Canada, Buzzi Unicem più 0,6, Atlantia, la ex Autostrade più 0,45. In questo caso si continua a beneficiare invece del traffico, dell'esodo del Pasquale, in sostanza, che evidentemente ha portato dei bei introiti alla società Autostrade. Fiat meno 1,46%. C'è stata la formalizzazione stamattina della maxi intesa fra Renault, Nissan e Daimler, formalizzata a Bruxelles. Ieri i titoli sulla scia di questa prospettiva avevano corso molto, oggi si fermano e Fiat infatti frena a Piazza Affari e perde 1,5%. Il petrolio è a $87 al barile, ma questo oggi non condiziona più di tanti i titoli del petrolio. Saipem a Milano perde 1 punto, Unipol meno 0,9, Banco Popolare meno 0,8%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Allora, come titolava il Sole 24 Ore Questo è il pezzo di lunedì 29 marzo, quindi di qualche giorno fa, proprio un pezzo di uno dei nostri ospiti di questa mattina, Maurizio Perazzini. Dal 1 aprile l'impresa nasce con un click. Sentiamo. Un solo modulo da inviare via internet alla Camera di Commercio con firma digitale e posta elettronica certificata. E tutti gli obblighi verso INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate per dare vita ad una nuova impresa sono assolti con pochi clic del mouse. È questa la comunicazione unica che ha preso il via il 1 aprile per creare una nuova impresa o comunicare variazioni di imprese già esistenti, di fatto in un solo giorno. Un servizio già attivo in fase sperimentale dallo scorso mese di ottobre, che prevede su circa 94.000 casi una contrazione dei tempi d'attesa dei neoimprenditori in media del 38%, per arrivare in alcuni casi, in particolare sud e isole, quasi al 45%. Il nuovo sistema di riduzione dei tempi e semplificazione delle pratiche è avvenuto rendendo le Camere di Commercio l'unico front office per tutte le registrazioni e per ottenere codice fiscale e partita IVA, iscrizione al registro delle imprese, ma anche per risolvere ogni adempimento ai fini previdenziali, INPS e assicurativi, INAIL. Utilizzando il sistema di comunica impresa, le imprese riceveranno tramite PEC, posta elettronica certificata, la ricevuta della pratica che costituisce il titolo immediato per l'avvio dell'attività. E nei seguenti 7 giorni le altre amministrazioni coinvolte dovranno completare la pratica, inviando i dati necessari al registro delle imprese che potrà certificare l'esistenza e l'operatività dell'impresa. Ovviamente questo non impedisce a INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate di contattare direttamente l'operatore economico, ma a quel punto lo faranno solo per motivi specifici e non per chiedere dati già in possesso del registro delle imprese. Allora, siete dei possibili neoimprenditori, dovrete utilizzare le nuove procedure telematiche fissate da Comunicazione Unica, raccontatecelo all'800240024, oppure avete già partecipato alla fase sperimentale di queste nuove procedure, d'altronde sono in corso da 2 anni in molte città. Come è andata? Come vi siete trovati? Insomma, avete avuto vita facile nell'avvio della vostra nuova impresa? Raccontatecelo, ve lo dicevo, all'800240024. E intanto Marco Bellinazzo, dal 1 aprile cos'è successo? Nelle città che avete monitorato, Milano, Roma, Torino, Padova, poi su Ferrara andrò con il nostro altro ospite, con Pirazzini. L'avvio ha scontato decisamente il periodo prefestivo, era il giovedì prima di Pasqua, quindi il flusso di istanze di comunica è stato forse inferiore alle attese. Sarà in realtà questa poi la settimana decisiva per mettere alla prova la funzionalità del sistema. Io proverei a sgombrare subito il campo da un equivoco: l'impresa in un giorno non si ottiene con comunica, è un obiettivo che va assolutamente perseguito, un obiettivo di semplificazione più ampio che vedrà ovviamente la comunicazione unica come primo step, che dovrà poi concludersi con l'attuazione dello sportello unico delle attività produttive, una nuova struttura che dovrà appunto permettere di realizzare l'impresa, se non in un giorno, in pochi giorni, l'apertura di una nuova impresa. Mancano i decreti attuativi per questo ulteriore passaggio, ma quello che possiamo sottolineare è che si fa un grosso passo avanti verso questo obiettivo. Si risolvono tutti i problemi, però se fino all'inizio di aprile di quest'anno bisognava, salvo che nelle città dove c'era la sperimentazione, recarsi all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INAIL, al registro imprese, ora basterà con un click, purché si possiede la firma digitale e la PEC, comunicare la nascita dell'impresa, e sarà poi la Camera di Commercio a trasmettere questi dati all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate, e in 7 giorni... in sostanza il collettore delle informazioni che poi provvederà a smistare. E in 7 giorni l'aspirante nuovo imprenditore si vedrà recapitare le ricevute di questi adempimenti sul suo indirizzo. Sicuramente, ripeto, un passaggio importante, non tutti i problemi sono risolti, ma su questo possiamo chiamare in causa Pirazzini. Esattamente, poi vedremo quali sono ancora i limiti di queste novità, però volevo farti un'altra domanda, Marco, visto che avete fatto un monitoraggio tra Milano, Roma, Torino, Padova e poi ricordo ancora Trieste, Ferrara, Napoli e Bari, non lo so, è stato individuato anche magari un settore che è stato particolarmente vivace efficace nell'utilizzo della nuova procedura, oppure non è possibile ancora fare, non lo so, un tipo di analisi di questo tipo? Le analisi proveremo a farle nei prossimi giorni, perché appunto sia le Camere di Commercio stanno elaborando i dati, che anche noi stiamo cercando da cronisti, perché anche lì sarebbe molto interessante di capire per chi è più facile partire. Esattamente, c'è da dire che grosso modo c'è stato un certo equilibrio nella fase di sperimentazione. Sono state circa 100.000 gli imprenditori che hanno aperto nuove strutture tra società e imprese individuali, quindi in realtà ci sono emersi una serie di problemi per le strutture magari più ampie, laddove forse anticipo un tema, ma insomma è quello in cui bisognava assumere anche dipendenti. Esatto. Però nelle piccole strutture, le piccole imprese con le quali tu facevi riferimento hanno potuto beneficiare di una forte contrazione dei tempi, come ricordava anche la scheda. Quindi per il momento possiamo dire che la comunica è molto apprezzata e sarà apprezzata da tutti coloro che hanno intenzione di aprire una piccola impresa. Infatti oggi magari, se riusciremo, ci soffermeremo proprio su quella individuale. Non so, Pirazzini, dico male, l'idraulico di turno per esempio, buongiorno intanto di nuovo, e soprattutto ci racconti a Ferrara com'è andata. Ma a Ferrara la sperimentazione è andata molto bene, abbiamo avuto importanti momenti di collaborazione sia con gli intermediari che tradizionalmente dialogano con il registro imprese e con gli altri enti, ma soprattutto con gli enti. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro, chiamiamolo interforze, tra noi, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e INAIL, e ci si presenta come front office integrato. La legge dice che il front office è il registro imprese, a me piace dire che il front office è una struttura integrata che è in grado di risolvere qualsiasi dubbio, qualsiasi richiesta di chiarimento da parte degli interlocutori, soprattutto in questa prima fase di avvio, che come tutti i grandi processi di cambiamento genera timori, preoccupazioni, un po' i ritardatari dell'ultimo minuto, ma direi che su questo terreno le Camere di Commercio hanno esperienza ormai dal 96, da quando gestiscono il registro imprese ereditato dal Tribunale, e dal 2003, quando hanno introdotto l'obbligo di utilizzo della firma digitale per le società, facendo quindi parecchi anni di palestra e mettendo a fattor comune la loro esperienza. Se vogliamo aprire, facciamo riferimento all'idraulico, una piccola attività, sono due le prospettive, noi lasciamo ampia possibilità di scelta: o l'imprenditore ritiene di avere capacità autonome di gestire da sé la procedura e quindi basta avere la firma digitale e la PEC, che sono i due architravi, due strumenti telematici che consentono poi la gestione della pratica comunica, oppure, come avviene ancora nella maggior parte dei casi, perché il business dell'idraulico non è certo quello di gestire la sua pratica per motivi di tempo, certo, ma avviene che vengono incaricati soggetti intermediari, tra cui i professionisti, le associazioni di categoria in particolare. Eccoci ritrovati, allora, buongiorno, ci racconta Gigi al 349-238-6666, noi abbiamo aperto una società a Padova il giorno 11 marzo ed è stata operativa in due giorni, quindi evidentemente con comunica, pur non essendoci ancora l'obbligo, che è scattato il 1 aprile, di utilizzare questa procedura unica appunto per registrare una nuova attività a registro imprese, e ovviamente assolvendo contemporaneamente a tutti gli adempimenti di natura fiscale, assistenziale e previdenziale. Ebbene, questi ascoltatori sono già partiti. Padova, Marco, Bellinazzo erano delle città che aveva già una sperimentazione partita da almeno due anni, sì, mi pare, diciamo, no? Che tutta l'area del Triveneto è stata molto interessata alla sperimentazione e so che lì appunto è andata particolarmente bene. Allora, adesso vi spiegheremo passo per passo cosa serve per inviare la comunicazione unica, per cui per chi avesse già velleità imprenditoriali e fino adesso magari avesse resistito un po' da questi progetti perché temeva scartoffie da compilare a non finire, visto che adesso la procedura si è velocizzata, vi diremo come fare, però sentirei anche un paio di ascoltatori, cominciando, come promesso, da Giuseppe da Brindisi. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, salve. Senta, io volevo essenzialmente esprimere un po' il mio disappunto sulla procedura un po' complessa. Io sono un intermediario, non sì, un utente. Ah. In effetti devo notare che siamo stati lasciati un po' così allo sbaraglio con questa nuova procedura. Perché lei dice, insomma, gli utenti, magari la persona che vuole aprire l'impresa, legge dai giornali che può fare tutto in mezza giornata, certo, e certo, poi chiaramente arriva da così lei e così non è, è vero. Perché comunque ci vuole la PEC, ci vuole la firma digitale. Infatti, quindi le difficoltà più grandi che ha riscontrato Giuseppe in qualità di intermediario sono state queste? Sicuramente, vabbè, già la PEC e la firma digitale già la si usa, però sicuramente una maggiore interfaccia con le camere di commercio, questa la devo osservare, questa mancanza. Giuseppe, adesso magari Pirazzini, sì, secondo lei dipende, non lo so, dalle aree di dalle camere di commercio più o meno attrezzate a queste novità, o da che cosa può dipendere? Anche secondo, non so, l'esperienza di Ferrara, per esempio, per gli intermediari c'è un po' di difficoltà rispetto alle promesse teoriche annunciate per i piccoli imprenditori, per i neo piccoli imprenditori? Ma guardi, soprattutto per gli intermediari, la gran parte del sistema camerale a livello nazionale ha organizzato momenti di formazione e informazione verso professionisti e associazioni di categorie. Qui a Ferrara, proprio nell'ultima quindicina di marzo, abbiamo fatto 3 incontri di un pomeriggio interi con circa 300-400 partecipanti e abbiamo spiegato la procedura. Poi la nostra società consortile Infocamere ha attivato anche canali di autoformazione con piattaforme di e-learning, dove se uno poi non ha tempo di partecipare alla formazione fisica può farlo senz'altro via internet, guardandosi un corso online che spiega come attivare Comunica. Quindi noi ci sentiamo di aver garantito al meglio delle nostre forze questa possibilità conoscitiva e informativa che in questa prima fase è dedicata soprattutto agli intermediari. Certo, giustamente, perché chiaramente per quanto uno si possa armare di buona volontà individualmente, io ritengo che sia sempre bene non partire almeno completamente allo sbaraglio. C'è un ascoltatore, Andrea, che ci ha scritto una mail lunghissima, adesso spero di poterla leggere perché ha anche dei punti piuttosto articolati, e prima di fare appunto il passo, prima di fare la descrizione della procedura per inviare la comunicazione step dopo step come vi avevo promesso, sentirei anche un altro ascoltatore che è Andrea da Parma. Buongiorno Andrea. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, intanto. Ci dica. Io volevo chiedere, ho appena aperto la partita IVA ma senza usare Comunica, però ho ancora in arretrato tutte le altre pratiche, praticamente l'adesione all'IMS, INAIL e compagnia. Volevo sapere se potevo rientrare in Comunica per svolgerla in modo più veloce oppure se devo seguire la trafila tradizionale. Benissimo, tutto. Andrea, grazie per la concretezza del suo caso che ci permette probabilmente anche di aiutare altri ascoltatori che magari si trovano nella medesima situazione. Pirazzini, allora, l'attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, in questo caso un passo che Andrea ha già espletato, come si relaziona con comunicazione unica? Ma in questa fase dei 30 giorni, perché siamo a cavallo di questi famosi 30 giorni che normalmente è il termine iniziale, ma poi magari ci torneremo su dopo, ovviamente uno può avere iniziato un pezzo di procedura con un ente prima a fine marzo e oggi si trova a completarlo. Si può fare tranquillamente in ambiente Comunica, basta solo dire che la partita IVA è già assegnata e l'adempimento avrà effetto solo ai fini del registro imprese o ad uno degli altri enti quali INPS o INA, alla seconda delle casistiche. Quindi non è che una cosa debba essere fatta prima o dopo. Ammettendo che Andrea non avesse avuto assegnato dall'Agenzia delle Entrate la partita IVA, poteva comunque già iniziare la procedura con comunicazione unica per l'avvio dell'attività d'impresa? Sì, allora la comunicazione unica comporta una novità dal punto di vista normativo proprio per la primissima iscrizione, cioè per la nascita o la costituzione dell'impresa che prima non esisteva, cioè oggi la comunica, basta leggersi proprio la prima riga dell'articolo 9 del decreto che l'ha introdotto, serve ai fini dell'avvio dell'attività, quindi è un adempimento che necessariamente per quanto riguarda la primissima iscrizione, sottolineo, va svolto senza possibilità di retroattività, quindi nel giorno in cui il soggetto sa che avvia la propria attività deve, magari preparandosi il file o la strumentazione informatica qualche giorno prima, il giorno dell'avvio con un clic trasmette la comunicazione unica e la novità fondamentale rappresentata dal rilascio della ricevuta che proprio per legge costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività. Questa è una novità che ha intervenuto un po' trasversalmente, anche se nell'ambito di un decreto legge del 2007, su tutta una serie di normative di settore che formalmente non sono cambiate, ma sotto questo aspetto proprio della primissima iscrizione c'è questo cambiamento importante. Ci si è un po' allineati su quella che era la norma dell'INAIL, che dal 65, essendo un'assicurazione, che doveva essere attivata il giorno stesso dell'inizio dell'attività. Allora, mamma mia, no, sto cercando così di farmi anche un pochino di ordine mentale per capire quali sono magari gli aspetti su cui vale la pena soffermarci per i nostri ascoltatori. Volevo ricordare anche che un'utile guida agli adempimenti e un'utile guida alla compilazione della comunicazione unica d'impresa, io l'ho scaricata questa mattina proprio dal sito www.registroimprese.it, quindi per chi volesse avere informazioni più precise, più dettagliate, ci sono proprio tutti gli step per fare la compilazione della comunicazione. Vi ricordo anche che da qualche giorno è in edicola, venduto separato dal Sole 24 Ore, quindi se vi interessa lo dovete chiedere all'edicolante, l'inserto Mettersi in proprio, guida alla scelta dell'attività di lavoro autonomo e alla creazione della piccola e media impresa. A pagina 54 c'è tutto il dettaglio sulla comunicazione unica al registro imprese. Allora, Marco, ritorno a te. Cosa serve per inviare la comunicazione? Intanto qui ci sono quattro punti fondamentali: firma digitale, credenziali per Telemaco, che è il sistema informatico delle Camere di Commercio, l'indirizzo di posta elettronica certificata, la PEC dell'impresa, e bisogna scaricare anche un software, Comunica Impresa. E quindi, come dicevamo prima, insomma, bisogna prepararsi, bisogna bene prepararsi, prima di mettersi davanti al computer. L'importante è non avere l'idea che appunto con una bacchetta magica o con un click magico si risolvano tutti i problemi. Bisogna mettersi nell'ottica di prepararsi a questo adempimento, magari facendosi aiutare dal proprio consulente, e si potrà risparmiare gran tempo rispetto a quanto accadeva prima. Quello che vorrei sottolineare, che va, che magari ci possiamo confrontare anche con Pirazzini, è sugli aspetti diciamo innovativi che ha portato questa procedura, che vanno chiariti. Uno dei problemi, per esempio, lo accennava prima Pirazzini, riguarda i termini di iscrizione o di questi adempimenti, soprattutto quando si hanno dei dipendenti, perché c'è bisogno di fare subito, immediatamente, l'iscrizione all'INAIL per le posizioni assicurativi, e quindi i termini più ampi che venivano prima concessi, per esempio per iscriversi al registro imprese, in questo caso non valgono più. Quindi questo è un profilo su cui magari possiamo riflettere. Altro problema riguarda appunto il novero degli intermediari abilitati, cioè delle persone alle quali ci si può rivolgersi per affidare, farsi, per fare la compilazione, per farsi aiutare. Quello che è importante sottolineare è che anche tra gli stessi professionisti bisognerà avere un'ottica diversa a questo punto. Sono molti professionisti che entrano nella vita di un'impresa, perché la comunica serve anche per le modifiche o per la cessazione dell'attività. Per la cessazione, esatto, aspetto che non abbiamo ricordato. E quindi i professionisti che entrano nella vita dell'impresa dovranno anche imparare a colloquiare telematicamente tra loro, quindi non solo le pubbliche amministrazioni, come già stanno facendo, e devono appunto integrare le attività, l'avvocato, il commercialista, il notaio, il consulente del lavoro, per che comunica e il processo di impresa in un giorno sia veramente efficace. Il problema dei termini e dei dipendenti, per esempio, punto focale, forse nelle segnalazioni che ci stanno facendo di problemi c'è anche questo. Infatti adesso magari ci arriviamo, aspetto i suggerimenti per chi è in viaggio, poi esploriamo un po' più nel dettaglio questo aspetto molto importante, perché sì, noi volevamo così un po' soffermarci sulla impresa proprio assolutamente individuale, poi magari un'impresa individuale che ha l'idraulico con il suo aiutante lo vuole assumere, in sostanza chiaramente può andare incontro ad una serie di adempimenti un po' più complicati. Leggo questa mail di Andrea. Allora, Come verrà gestito, ci chiede, l'addebito delle pratiche ad IMS e INAIL? Di comunica che fino ad oggi non avevano costi per le aziende. È data possibilità alle Camere di Commercio di decidere autonomamente in caso di addebiti fino ad oggi non dovuti, come giustificare ai propri clienti che vi sono costi aggiuntivi che fino ad oggi non dovevano sostenere? Questa è una prima parte della mail, la seconda me la riservo per la seconda parte, per l'ultima parte anzi di Salvadanaio, quindi chiedo anche magari a Maurizio Pirazzini, che è un operatore del settore molto preparato, di così preparare anche una risposta per questo ascoltatore. Allora, ritorniamo al vice segretario generale della Camera di Commercio di Ferrara, il dottor Maurizio Pirazzini, che ha scritto molti articoli sul tema di oggi, sul Sole 24 Ore, al quale chiediamo un po' di delucidazioni sul quesito che ci ha posto Andrea, che ci ha scritto una lunga mail, e lui diceva: come verrà gestito l'addebito delle pratiche di IMS e di INAIL, di comunica che fino ad oggi non avevano costi per le aziende? Pirazzini, è una domanda frequente che le fanno anche gli interlocutori che si rivolgono alla Camera di Commercio di Ferrara? Certo, è una domanda ormai classica e fa parte di quelle che noi stiamo elaborando, una serie di domande e risposte su questi temi, e sono già anche disponibili sul sito registroimprese.it. Benissimo. Ma allora, qui non c'è nessun dubbio, c'è una legge dello Stato che dice che gli adempimenti solo previdenziali e assistenziali non scontano alcun imposta, diritto, e quindi sono assolutamente gratuiti. Ovviamente facendo comunica, se c'è la parte, diciamo così, anche registro imprese, lì si pagano diritti di segreteria secondo tariffe previste dal decreto, da un decreto ministeriale, che so essere in cantiere una modifica che dovrebbe uscire a giorni, che preciserà, ma non c'è neanche bisogno di farlo perché è già la legge che dice che solo le pratiche INAIL, ripeto, senza la parte registro imprese, non hanno costi aggiuntivi e non cambia nulla rispetto a prima. E intanto questo stesso ascoltatore lamenta anche che rivolgendosi ai vari call center, numeri verde che sono stati attivati in questi giorni da parte, credo, di tutti gli enti interessati, da IMS, INAIL, per spiegare appunto come funziona la nuova procedura, lui dice in sostanza: non faccio altro che essere rimandato da un call center ad un altro, anche su semplici quesiti sulla procedura appunto comunica, Fedra, Telemaco, PEC, posta certificata, tanti programmi diversi per gestire aspetti che fino a ieri si gestivano con la procedura diretta di IMS o INAIL. Addirittura Pirazzini, ascoltatore, rileva una situazione del tutto contraria da quella da cui siamo partiti, cioè è tutt'altro che semplificata, secondo lui, la procedura per l'avvio di un'attività d'impresa. Ma allora, può essere che in questa fase ci siano una difficoltà soprattutto di carattere tecnologico legata a com'è formato il pacchetto comunica, che è la somma sostanzialmente di 3 o 4 software. Ma questo nasce dal 2007, quando uscì, ricordiamoci che questa norma è contenuta in un decreto legge. Quando uscì il decreto legge misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale, sembrava che a gennaio del 2007, sembrava che nel giro di 2-3 mesi dovesse andare tutto in funzione, e quindi la scelta tecnologica fu quella di dire: non cambiamo, ogni amministrazione mantiene le sue modulistiche e facciamo solo una software che è una sorta di cartella che aggrega le singole modulistiche. Questa scelta è una scelta così tecnica, e poi è stata recepita nelle regole tecniche, è stata approvata con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali. Oggi però stiamo lavorando su questo versante della semplificazione tecnologica e portare direttamente la compilazione sul web. Cioè, noi riusciamo già per il mondo sicuramente delle imprese individuali ormai completamente, tramite un'apposita applicazione via web che si chiama StarWeb, che è in uso in quasi tutte, direi, le camere di commercio italiane, e se ce n'è qualcuna fuori sta arrivando, in cui da una pagina web si sarà in grado di compilare la modulistica in modo veramente integrato. Cioè, se io cambio ad esempio la sede, questo con un'unica indicazione produrrà effetto sia per il registro imprese che per l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate. Benissimo, intanto, allora, proprio a proposito di questo, Pirazzini, Ale da Senigallia ci chiede: io ho un'attività di bar tabacchi da anni, devo variare e aggiungere il servizio fax e fare la variazione, devo utilizzare questa procedura? Certo, tutte le variazioni rientrano a pieno titolo in comunica e quindi dovrà utilizzare questa procedura. Potrà ovviamente, se è in grado, compilare, avendo la firma digitale, la pratica online direttamente, oppure affidarsi all'intermediario. Allora, Federico dalla provincia di Firenze, buongiorno, rapidissimo, se ce la fa, non so Marco se riusciamo ad affrontare il tema dipendenti. Buongiorno, però ci proveremo. Innanzitutto confermo che con Star Web è molto più semplice. Benissimo. Le pratiche. Web stellare, sì. Abbiamo fatto il 31 di marzo una pratica di variazione di unità locale come intermediari. Qui abbiamo fatto con i modelli predisposti dall'Agenzia delle Entrate a 7 o a 9, ora non ricordo cosa bene. Cosa vuol il dire la variazione di un'unità locale? Cioè una SNC alla unità locale in via Giovanni XX la sposta in via Modigliani. Benissimo, okay. Mi deve perdonare Federico, sa com'è. Benissimo, quindi che cosa è successo? Con la pratica IVA, poi abbiamo spedita il primo di aprile, quindi con comunica ci viene il messaggio a cui non siamo ancora venuti a capo, perché come già riferito call center non ci mettono un po' a vuota. E gli dice non c'è congruenza fra il codice fiscale dell'intermediario e quello del responsabile. E non ci dice nient'altro. Ah, ecco, quindi non sa magari se sono stati immessi dei dati sbagliati. Probabilmente, però chi? Chi la fa? Responsabile, non si pensa, responsabile dell'azienda, e quello è il codice fiscale del responsabile della SNC. L'intermediario siamo noi, e quindi siamo quelli registrati a comunica. Io non vedo perché non capivamo questo problema. Fermo lì Federico. Pirazzini, che è successo secondo lei? Ma qui, se ho capito bene, riguarda solo il profilo Agenzia delle Entrate, e quindi lì bisogna un attimo capire, perché probabilmente è un controllo automatico che fa l'agenzia nel back office, diciamo, una volta ricevuti i dati da comunica. Ma anche questo, il tema dei controlli, si sta lavorando e si è lavorato nei mesi scorsi per portarli direttamente sul PC dell'utente, cioè se c'è qualcosa che non va, tipo come in questo caso un problema sul codice fiscale, oppure mi erano state segnalate delle incongruità sulla validazione dei codici di avviamento postale che in alcune città sono cambiate, questi tipi di controlli che sono puramente informatici si sono già portati sul PC. In questo caso è l'applicazione stessa che prima di spedire segnala che c'è un problema, quindi si riesce a gestire, diciamo, in via preventiva senza dover attendere la segnalazione formale, in questo caso dell'Agenzia delle Entrate. Benissimo, allora io mi devo fermare per un attimo perché abbiamo il nostro appuntamento con le parole del risparmio, visto che stiamo andando verso il 21, il 22 e 23 aprile, quando a Milano si svolgerà il Salone del Risparmio Gestito. La parola del risparmio di oggi, appuntamento che anche Radio 24 seguirà, la parola del risparmio di oggi è, anzi sono due, fondi immobiliari. Radio 24 e Assogestioni vi presentano le parole del risparmio. I fondi immobiliari si caratterizzano per il fatto di investire una parte o la totalità del proprio patrimonio sul mercato immobiliare, attraverso l'acquisto di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. In passato i fondi immobiliari erano costituiti esclusivamente in forma chiusa e riconoscevano ai partecipanti il diritto al rimborso delle quote solo a scadenze predeterminate. Oggi invece garantiscono una maggiore flessibilità. È prevista infatti la possibilità di procedere a emissioni successive di quote e a rimborsi anticipati, così da consentire ai sottoscrittori di fare ingresso o di uscire dal fondo prima della normale scadenza. La redditività di un fondo immobiliare deriva dalla rivalutazione degli immobili contenuti nel fondo e dai canoni di affitto che il fondo stesso riscuote. Oltre alla remunerazione del capitale investito, i fondi immobiliari offrono anche un'interessante caratteristica: sono scarsamente correlati con i mercati finanziari. Questa loro qualità li rende adatti a conferire un più elevato grado di stabilità ai portafogli finanziari. Salone del Risparmio a Milano dal 21 aprile. Iscriviti gratis a salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato le parole del risparmio. Devo chiudere rapidamente, 30 secondi di tempo. Marco Bellinazzo, aiutami. Allora, dal 1 aprile l'impresa nasce con un numero un po' più alto di click, non solo con uno. Velocemente, una grande opportunità, bisogna avere pazienza in questa prima fase. E infatti, comunque devono arrivare ancora molti chiarimenti dall'INAIL, dall'INPS, probabilmente, presumibilmente, speriamo i call center funzioneranno sempre meglio, naturalmente, anche lì chiaramente molto personale che è stato preparato velocemente anche per rispondere alle esigenze dei contribuenti e dei nuovi imprenditori in questo frangente. Pirazzini, grazie per essere stato con noi, la richiameremo presto. Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata. Naturalmente Salvadanaio termina qua, ci sentiamo domani, parleremo di mercati per tutti coloro che aspettano la trasmissione su questo. Intanto buona giornata.